dopo essermi cambiato da... Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Quando uscii dall'ufficio di Wolfsheim, il cielo era diventato scuro e tornai a West Egg che piovigginava. Dopo essermi cambiato d'abito, andai a casa di Gatsby e trovai il signor Getz che faceva su e giù per il corridoio in uno stato di esagitazione. L'orgoglio per il figlio e i suoi beni non cessava di aumentare e ora aveva qualcosa da mostrarmi. Jimmy mi spedì questa foto, estrasse il portafoglio con dita tremanti. Guardate qui. Era una fotografia della casa, con gli angoli consumati e sporcato da mille ditate. Mi indicò ogni dettaglio con fervore. Guardate qui, e quindi cercò un segno d'ammirazione nei miei occhi. Aveva mostrato la foto tante di quelle volte che ormai doveva sembrargli più reale della casa stessa. Me l'ha spedita Jimmy. Penso sia una foto molto bella. Rende ben l'idea. Molto bene, sì. Lo avevate visto di recente. Venne a trovarmi 2 anni fa e mi comprò la casa in cui vivo adesso. Ovviamente eravamo in bolletta quando lui ci lasciò, ma ora capisco che aveva le sue buone ragioni. Sapeva di avere un grande futuro davanti a sé. E ogni volta che aveva successo in qualcosa era sempre generoso con me. Sembrava riluttante a riporre la foto. Insistei a tenerla sotto i miei occhi per un altro minuto. Dopodiché mise via il portafoglio e prese dalla tasca la copia vecchia e rovinata di un libro intitolato Opalon Cassidy. Guardate qui. Questo è un suo libro di quando era ragazzo. Fa capire che tipo era. L'aprì sul retro della copertina e lo voltò affinché potessi vedere. Nel riquadro erano scritte a stampatello la parola programma e la data 12 settembre 1906 e più sotto. Sveglia, ore 6. Esercizi coi manubri e a parete. Dalle 6.15 alle 6.30. Studio elettricità, eccetera, dalle 7.15 alle 8.15. Lavoro, dalle 8.30 alle 4.30 pomeridiane. Baseball e sport, dalle 4.30 alle 5. Esercizi, dizione, postura e come conseguirla, dalle 5 alle 6. Studio invenzioni necessarie, dalle 7 alle 9. Propositi generali. Non perdere tempo da Shafters, o un nome indecifrabile. Smettere di fumare e masticare gomma, fare il bagno a giorni alterni, leggere un libro o una rivista istruttivi a settimana, risparmiare $5, barrata, $3 a settimana, comportarsi meglio con i genitori. Ho trovato questo libro per caso, disse il vecchio. Fa capire che tipo era, vero? Lo fa capire, sì. Jimmy era nato per farsi strada. Si dava sempre degli obiettivi, cose così. Avete notato com'è riuscito a raffinarsi? Era davvero un portento in questo. Una volta mi disse che mangiavo come un porco e io l'ho picchiato. Era restio a chiudere il libro, leggeva ogni appunto a voce alta e poi mi guardava eccitato. Credo si aspettasse di vedermi copiare la lista per giovarmene a mia volta. Poco dopo le 3 il ministro luterano arrivò da Flushing e io cominciai involontariamente a buttare occhiate fuori dalle finestre nella speranza che comparisse qualche macchina. Il padre di Gatsby fece altrettanto. E mentre il tempo passava e i domestici entravano e restavano in attesa nell'atrio, il vecchio cominciò a sbattere le palpebre e parlare della pioggia con preoccupata incertezza. Il ministro controllò varie volte l'orologio, così lo presi da parte e gli chiesi di attendere un'altra mezz'ora. Ma non servì a nulla, non venne nessuno. Intorno alle 5 la nostra processione di 3 macchine raggiunse il cimitero e si fermò sotto una fitta piovigine vicino al cancello. Prima un carro funebre, orrendamente nero e bagnato, poi io, il signor Getz e il ministro nella limousine, e poco più tardi 4 o 5 domestici e il postino di West Egg nella giardinetta di Gatsby, tutti bagnati fradici. Mentre ci avviavamo a varcare il cancello ed entrare nel cimitero, udì un'auto arrestarsi e quindi il rumore di qualcuno che ci veniva dietro, sciaguattando nel terreno acquoso. Mi guardai attorno. Era l'uomo con gli occhiali da civetta che una sera di 3 mesi addietro avevo sorpreso a stupefarsi al cospetto dei libri nella biblioteca di Gatsby. Non lo vedevo da allora. Non so come fosse venuto a conoscenza del funerale, né tantomeno come si chiamasse. La pioggia gli colava sugli occhiali spessi e lui se li tolse e li asciugò per vedere il telo protettivo che veniva srotolato dalla fossa di Gatsby. Cercai allora di pensare per un istante a Gatsby, ma lui era già troppo lontano e potei solo ricordare, senza risentimento, che Daisy non aveva mandato né un messaggio né un fiore. Udì a malapena qualcuno mormorare: «Benedetti sono i morti su cui cade la pioggia», e quindi l'uomo con gli occhi da civetta dire «Amen», con una voce fiera. In ordine sparso tornammo di corsa alle macchine sotto la pioggia. Occhi da civetta mi parlò nei pressi del cancello. «Non sono potuto venire a casa», osservò. «Non ha potuto nessun altro». «Andiamo», proruppe, «che diamine! Si presentavano a far proprio!» Si spezzò gli occhiali e li asciugò di nuovo dentro e fuori. «Povero figlio di puttana», disse. Uno dei miei ricordi più vividi resta il ritorno a casa dal collegio e in seguito dall'università per le vacanze di Natale. Quelli che andavano più lontano di Chicago si radunavano nella vecchia e male illuminata Union Station alle 6 di una sera di dicembre con qualche amico di Chicago già immerso nell'allegrezza festiva per un saluto frettoloso. Rammento le pellicce delle ragazze che tornavano da casa di questa o quella signorina e le chiacchiere d'alito ghiacciato e le mani che sventolavano sopra le teste quando scorgevamo una vecchia conoscenza e il confronto degli inviti. «Vai dagli Ordway? Dagli Hersey? Dagli Schultz?» E i lunghi biglietti verdi stretti nelle mani inguantate. E in ultimo le buie carrozze gialle della linea Chicago, Milwaukee e St. Paul, festose come il Natale stesso, sui binari accanto al cancello. Quando partivamo infilandoci nella sera invernale, la vera neve, la nostra neve, cominciava a distendersi al nostro fianco e a guizzare contro i finestrini, e le deboli luci delle piccole stazioni del Wisconsin sfilavano via, d'improvviso l'aria si caricava di un'elettricità corroborante. La respiravamo a pieni polmoni mentre tornavamo dalla cena passando per i corridoi freddi. Immensamente consapevoli, per una sola strana ora, della nostra identità con quella regione, prima di tornare a fonderci in essa in maniera indistinguibile. È quello il mio Midwest. Non il grano, né le praterie, nelle perdute città di svedesi, ma i treni inebrianti dei miei ritorni a casa in gioventù, e i lampioni delle strade, e i sonagli delle slitte in un'oscurità di ghiaccio, e le ombre delle corone d'agrifoglio gettate dalle finestre illuminate sulla neve. Io sono parte di tutto questo, un poco austero per le sensazioni di quei lunghi inverni, un poco compiaciuto per l'essere cresciuto nella casa dei Carraway, in una città dove le abitazioni conservano per decenni il nome di una famiglia. Mi rendo conto ora che questa è stata una storia dell'Ovest, in fondo. Io, Tom e Gatsby, Daisy e Jordan, eravamo tutti di quelle parti. E forse avevamo in comune qualche carenza che ci rendeva impercettibilmente inadatti alla vita dell'Est. Finanche nei momenti in cui l'Est più mi impressionava, finanche nei momenti in cui ero più intensamente consapevole della sua superiorità rispetto alle noiose, caotiche, pompose città di là dall'Ohio, con le loro interminabili inquisizioni che risparmiavano solo i bambini e le persone molto anziane, finanche allora vi vedevo sempre un che di distorto, West Egg in special modo, seguita ad apparire nei miei sogni più deliranti. La vedo come una scena notturna di El Greco, un centinaio di case, al contempo convenzionali e grottesche, rannicchiate sotto un cielo fosco e incombente e una luna priva di lucentezza. In primo piano quattro uomini in abito da sera incedono con solennità sul marciapiede portando una barella su cui è distesa una donna ubriaca con un vestito da sera bianco. Una mano penzola di lato e i gioielli che porta emanano freddi luccichii. Gli uomini, i cui volti sono serissimi, svoltano in direzione di una casa, la casa sbagliata, ma nessuno conosce il nome della donna e a nessuno importa. Dopo la morte di Gatsby, l'Est divenne per me un luogo infestato, distorto oltre la capacità dei miei occhi di correggerlo. Così, quando un fumo azzurro di foglie friabili impregnò l'aria e il vento agitò i panni umidi che pendevano rigidi dalla corda, decisi di tornare a casa. C'era una sola cosa che andava fatta prima che io partissi. Una cosa inelegante e spiacevole, che forse sarebbe stato meglio ignorare. Ma volevo lasciare le cose in ordine e non limitarmi a confidare che un mare premuroso e indifferente spazzasse via le mie scorie. vidi Jordan Baker e parlai a lungo e tergiversai attorno a quel che c'era accaduto quando eravamo insieme e quel che era accaduto a me dopo, e lei restò ad ascoltare, perfettamente immobile in una grande poltrona. Era abbigliata per giocare a golf e ricordo di aver pensato che pareva una bella illustrazione. Il mento un poco sollevato, baldanzoso, i capelli color foglia d'autunno, il viso dello stesso tono di bruno del guanto senza dita posato sul suo ginocchio. Quando ebbi finito, lei mi disse senza giri di parole che si era fidanzata con un altro. Ne dubitai, benché fossero molti gli uomini che l'avrebbero sposata a un suo cenno del capo, ma finsi di essere sorpreso. Solo per un attimo mi domandai se non stessi commettendo uno sbaglio, quindi riconsiderai alla svelta ogni cosa e mi alzai per dirle addio. Non di meno sei stato tu a piantarmi, disse Jordan d'improvviso. Mi hai piantata per telefono. Ora non me ne frega più niente, ma è stata un'esperienza nuova per me. E per qualche tempo mi sono sentita un po' frastornata. Ci stringemmo la mano. Ah, e ti ricordi, aggiunse, di una nostra conversazione su come si guida la macchina? Beh, non esattamente. Non dicesti che chi guida male è al sicuro soltanto finché non incontra un altro che guidi male? Beh, ho incontrato un altro che guida male, no? Voglio dire che sono stata sbadata a farmi un'idea tanto erronea. Pensavo fossi una persona onesta, leale. Pensavo fossi il tuo orgoglio segreto. Ho 30 anni, dissi. Ho 5 anni di troppo per chiamare onore il mentire a me stesso. Non rispose. Infuriato e in parte innamorato di lei e tremendamente dispiaciuto, mi allontanai. Un pomeriggio di fine ottobre vidi Tom Buchanan. Camminava davanti a me sulla Fifth Avenue alla sua maniera attenta e aggressiva, le mani un poco scostate dal corpo come per respingere eventuali incursioni avversarie, la testa che si girava a scatti di qua e di là, secondando i suoi occhi inquieti. Proprio mentre rallentavo per evitare di superarlo, lui si fermò e cominciò a scrutare accigliato la vetrina di una gioielleria. D'un tratto mi vide e si fece incontro, tendendo la mano. «Qual è il problema, Nick? Ti secca darmi la mano?» «Sì. Sai cosa penso di te?» «Tu sei pazzo, Nick», si affrettò a dire. «Pazzo come un cavallo, non capisco che problema hai!» «Tom», domandai, «cosa dicesti a Wilson quel pomeriggio?» Mi fissò senza proferire parola e compresi che ci avevo visto giusto a proposito di quelle ore di buco. Feci per allontanarmi, ma lui mi seguì e mi afferrò per il braccio. «Gli dissi la verità», rispose. Si presentò alla porta mentre ci stavamo preparando a partire e quando gli ho fatto dire che non eravamo in casa, lui ha tentato di salire di sopra con la forza. Era abbastanza folle da uccidermi se non gli avessi detto a chi apparteneva l'auto. Ha tenuto la mano sulla pistola che aveva in tasca ogni singolo minuto del tempo che si è trattenuto in casa. Si interruppe, mantenendo la sua aria spavalda. «Sì, gliel'ho detto. E allora?» «Quel tipo se l'era cercata. Ti ha gettato fumo negli occhi, proprio come ha fatto con Daisy, ma era un violento. Ha messo sotto Myrtle come si mette sotto un cane e non ha nemmeno fermato l'auto.» Non c'era niente che potessi dire fuorché la sola cosa da non dire, e cioè che non era vero. «E se tu pensi che non abbia avuto la mia parte di sofferenza, guarda, Quando sono andato a disdire l'affitto di quell'appartamento e ho visto quella maledetta scatola di biscotti per cani poggiata lì sulla credenza, mi sono seduto e ho pianto come un bambino. Per Dio, è stato terribile. Non potevo perdonarlo, né c'era verso che mi ispirasse una qualche simpatia. Ma capii che quanto aveva fatto era, dal suo punto di vista, totalmente giustificato. Tutto era accaduto per sbadataggine e confusione. Erano persone sbadate, Tom e Daisy. Rovinavano le cose e le persone, e poi si rintanavano nel loro denaro, o nella loro enorme sbadataggine, o in quel che comunque li teneva uniti, e lasciavano che altri rimediassero al guaio che avevano combinato. Gli strinsi la mano. Sembrava sciocco non farlo, perché d'improvviso mi sentivo come se stessi parlando a un bambino. Quindi lui entrò nella gioielleria per comprare una collana di perle, o magari un paio di gemelli, sbarazzandosi per sempre della mia sensibilità da provinciale. La casa di Gatsby era ancora vuota quando partii. L'erba del suo prato era cresciuta quanto quella del mio. Uno dei tassisti del villaggio non passava mai davanti al cancello d'ingresso senza fermarsi e indicarne l'interno. Forse era stato lui a portare Daisy e Gatsby a East Egg la sera dell'incidente, e forse si era fatto un'idea tutta sua della storia. Non volevo ascoltarla, e lo evitavo quando scendevo dal treno. Trascorrevo i miei sabati sera a New York, perché quelle sue feste luminose e sgargianti erano così vivide in me che udivo ancora la musica e le risate che giungevano, deboli e incessanti, dal suo giardino, e l'andirivieni di auto sul suo viale. Una sera udii una macchina vera e vidi le luci fermarsi davanti alla scalinata d'ingresso, ma non andai a controllare. Probabilmente si trattava di un ultimo ospite che era stato in capo al mondo e non sapeva che la festa era finita. L'ultima sera, con il baule riempito e l'auto venduta al droghiere, feci un salto per dare un'ultima occhiata a quell'immenso e incoerente fallimento in forma di casa. Sui gradini bianchi una parola oscena, scribacchiata da qualche ragazzo con un pezzo di mattone, spiccava al chiarore della luna e la cancellai, raschiando la pietra con la suola. Quindi gironzolai fino alla spiaggia, dove mi allungai sulla sabbia. La maggior parte delle grandi case della costa erano chiuse adesso, e non si vedevano che rade luci, a parte il bagliore mobile e indistinto di un battello che attraversava lo stretto. E mentre la luna si stagliava più in alto, quelle costruzioni effimere cominciarono a dissolversi, finché a poco mi resi conto di come appariva l'isola, che in tempi andati era sbocciata agli occhi dei marinai olandesi. Un seno fresco e verde del nuovo mondo. I suoi alberi scomparsi, gli alberi che avevano fatto spazio alla casa di Gatsby, col loro bisbiglio avevano un tempo assecondato il più grande ed estremo dei sogni umani. Per un fuggevole e incantato istante l'uomo doveva aver trattenuto il respiro al cospetto di questo continente, costretto a una contemplazione estetica che non capiva e non desiderava, faccia a faccia, per l'ultima volta nella storia, con uno spettacolo all'altezza della sua capacità di meravigliarsi. E mentre me ne stavo lì seduto a rimuginare su quel mondo antico e sconosciuto, pensai alla meraviglia di Gatsby nello scorgere per la prima volta la luce verde all'estremità del pontile di Daisy. La strada che lo aveva portato a quel prato blu era stata lunga, e il suo sogno dovette sembrargli troppo vicino per non riuscire ad afferrarlo. Non sapeva che il sogno era già alle sue spalle, da qualche parte nelle vaste tenebre di là della città, dove i campi bui della Repubblica si spalmano nella notte. Gatsby credeva nella luce verde, nel futuro orgiastico che anno dopo anno si allontana da noi. Allora ci sfuggì. Ma non importa. Domani correremo più veloce. Distenderemo le braccia più lontano. È un bel mattino. Così seguitiamo a bordeggiare come barche controcorrente, sospinte di continuo nel passato. I'm a fool to want you.